Ma comunque appunto veniva così cioè, in realtà veniva da dire delle cose sia rispetto al discorso prettamente della distribuzione editoriale e produzione, però rispetto al carcere, appunto, il carcere è cambiato come è cambiata la società, nel senso che comunque poi rispetto al discorso che dicevi tu ci siamo dimenticati che in Italia ad esempio c'è Muccioli, ad esempio, voglio dire, o esperienze del genere che non a caso sono quelli che la legge Fini l'hanno accolta con braccia aperte e proprio nell'ottica di quello che dicevi tu, voglio dire, quel tipo di comunità, quel tipo di associazioni sono una macchina da produzione. Qui ci vorrebbe proprio Jeff LaMotta, che lui nel dialogo parla della parte italiana mentre io parlo della parte, diciamo, statunitense, perché in effetti, e qua però a Muccioli era stata affidata in Emilia la gestione privata, gliel'hanno già tolta, l'hanno già sbattuto fuori, fortunatamente gliel'hanno già tolta, però comunque è stato uno dei primi a gettarsi verso queste forme. Armani, per dirvi, è uno dei primi che era intenzionato, la società dove lavoro, che comunque era Telecom, è la prima ad aver aperto un call center dentro San Vittore. Sì, poi appunto, no? Il carcere non è più un luogo, anche il carcere come la società non è più un luogo di un conflitto aperto, voglio dire, se ricordiamo poi come è cambiato il carcere negli anni 70, il fatto che comunque c'erano delle rivolte. Sì, ma che rispecchiavano anche quelle che c'erano fuori, perché i militanti che erano fuori poi si ritrovavano dentro, c'era questo ricambio continuo, e ce n'erano forse più dentro che fuori a un certo punto, per cui c'era un movimento carcerario fortissimo. Adesso non esiste nulla di tutto ciò fuori e non esiste nulla di tutto ciò dentro. E, anzi, poi la componente carceraria, se vogliamo, è cambiata drasticamente, no? Per cui adesso c'è una percentuale crescente altissima di extracomunitari, quello che è impressionante è comunque seguendo gli Stati Uniti, per quello che sono troppe linee di continuità che preoccupano anche le donne, e vedrete adesso con la storia delle droghe quante. E poi appunto che entri in quel circolo lì, nel senso che comunque cioè tu rispetto all'America, mi sembra Curcio che diceva questa cosa qua, non mi ricordo, però ce l'ho in testa questa cosa qua, che non so quanta popolazione, che percentuale siamo arrivati, che forza di lavoro c'è, e una persona nel momento in cui entra in carcere, se tu vai su internet quel nome compare, quindi la difficoltà poi una volta che sei fuori a uscire da quel circolo, perché tu nel momento in cui vai a chiedere lavoro da una parte basta andare internet per vedere la persona se ha avuto dei precedenti, se ha avuto una reclusione, quindi non riuscire a trovare lavori decenti, sei entrato in quel circolo lì e sei la possibilità di, e in quel caso lì sei un mio dipendente a tempo determinato, addirittura infinito.